Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo internazionale, stiamo parlando che non sei altro. Ma che dici? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Miserabili! Eccolo qua, buonasera. Allora, se Sinna ha chiamato quella nana, Parenzo, tutte le sere dovrebbe far arrestare tutti. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. Perché tutte le sere Cruciani c'è i bagni del sole 24 ore sporchi. Tutte le sere va a cagare, c'è i bagni sporchi. Tutte le sere come accendo la zanzara. Dice, oi, senti, che c'ho i bagni sporchi e va a cagare nei bagni dei vicini. Dico, guarda, mi sono rotti i coglioni. Noi abbiamo un'impresa di pulizie, le mando due persone e gliele faccio pulire io. Volevo salutare Parenzio. Sì, Parenzio, Parenzo, come cazzo si chiama? Come Macron! Allora ragazzi, continua la campagna di Striscia la Notizia contro Flavio Insinna. Tirano fuori altri audio in cui si rivolge in realtà a chi? Si rivolge alla sua redazione, alla gente che lavora con lui, trattandoli male, sì, ma una campagna strumentale e vergognosa, amico mio. Ma sì, ma chi se ne frega? Ma certo, è una campagna strumentale e vergognosa, una campagna, Striscia la Notizia è abituata a fare così anche. Sì, no, ma in genere loro facevano inchieste serie. Ma non è vero, fanno anche le campagne sui concorrenti, l'hanno sempre fatte, dai, hanno sempre tirato. Sì, ma ecco, bravo, hai detto, hai etichettato giusto, sì, una campagna sui concorrenti. Ma l'hanno sempre fatto, ogni tanto hanno fatto il culo. No, ma va bene, però diciamo le chiamiamo le cose. Sì, ma ogni tanto hanno fatto il culo così anche a gente di Mediaset. Naturalmente dipende da come gli girano i coglioni a Antonio Ricci, cioè sei amico di quella, amico di quell'altro. Oh, e voglio precisare che non difendo Insinna né perché lavoro alla Rai, perché non ci lavoro, né perché è un amico, perché l'ho visto una volta per strada per caso. Sì, ma come... allora Insinna... No, voglio precisare perché siccome no, molti stronzi cominciano a mandare perché è un vostro amico, visto una volta per caso. Allora, Insinna io lo difendo per un semplice motivo, perché non ha detto niente di strano. Bravo. Cioè, non è che ha detto delle cose in pubblico, ha detto delle cose in una riunione con delle persone. No, ma dico, pubblicassero le telefonate tra te, Andro Mercù e Riccardo Poli, ad esempio, che sono... ma veramente, ti ripeto, purtroppo sono... No, voglio dire, vai. Anche Andrea, cosa succede? Ma è l'esempio sbagliato, è l'esempio sbagliato. Ah, no, posso, è vero, perché tu sei così anche nella vita normale. Questo è vero. Insinna, non me ne frega un cazzo, siete sorci, ma si rivolgeva ai suoi uomini, alle persone che lavorano con lui, che probabilmente sono gli stessi che hanno dato i nastri o le telefonate a Striscia, vai. Quel cazzo che fa, capite voi, non è che è pancello, fa cagare, dai, su. Cioè, non è che per me, lei dice accontentiamo sto coglione. Non me ne frega un cazzo, dai. Per me potete mandare i video, i telefonini, le cose, quello che vi pare. Per me potete mandare i messaggi a Leone, alla Rai, è cattivo, fate come vi pare, siete solo dei sorci che parlate dietro. Guardate amici di Striscia, ha ballato senza microfono, adesso ha di nuovo il microfono, ma fatela piangere culo. Guardate amici di Striscia, ha il microfono, poi non ce l'ha, e dov'è finito? Al culo della momento, dai. Premio la zanzara a Flavio Insinna. Beh, assolutamente ragazzi, Flavio Insinna, anche questo dovrebbe fare una trasmissione alla radio, cioè va premiato, va premiato assolutamente con il premio Zanzara dell'anno, premio Zanzara della settimana, premio Zanzara d'oro a Insinna. È eccezionale, è molto meglio Insinna quando parla così piuttosto che l'Insinna un po' precisino, per esempio quella pessima intervista che ha fatto, affari suoi per carità, quell'intervista tutta buonista che ha fatto lì dalla Berlinguer. Ma quello è quello che pensa, ma cosa ma vuol chi dire? Se ne pensa? Ma sì, ma io non lo sto mettendo in, non sto facendo il paragone tra quello, tra quell'Insinna lì come hanno fatto molti e l'Insinna e del fuori onda, esatto, là di quella del... ecco, no, no, figuriamoci, non sto facendo questo paragone. Sì, ma l'Insinna che dice parla dei poveri, degli umili, cioè, quello non me ne frega nulla. L'Insinna pieno di rabbia che dice siete dei sorci, guardate Striscia la notizia, guardate che sto, datevela pian del culo, sì sto ballando, quello è l'Insinna vero, l'Insinna che mi piace, a spada tratta, avanti Insinna, avanti, difendiamoci. Allora c'è un prete che si chiama Don Amendola. Poi stasera vogliono fare un'altra caciara, quelle di Striscia, sul libro di Insinna, in cui... Ma chi se ne frega, ragazzi, su. Avanti tutta, Insinna, avanti tutta. Don Amendola, un prete che ha fatto una messa per un ex fascista morto, ma chi se ne frega, un tizio che si chiama Don Amendola. Sentite com'è finita questa specie di cerimonia, al museo, no al museo, al Monumentale di Milano, se non sbaglio, Cimitero Monumentale di Milano. Ricamerata Umberto Vivirito. Presente. Ricamerata Umberto Vivirito. Presente. Ricamerata Umberto Vivirito. Presente. Col prete col braccio alzato, ma ti rendi conto? Ma no, sì, la chiesa dovrebbe sospenderlo a divinis, questo bisognerebbe fare, no? Bah, adesso, ma chi se ne frega, dai, su, ma sono quattro straccioni fascisti che si radunano dentro un cimitero, vengono ripresi. Comunque ti voglio dire questo prete mi fa schifo, veramente, a parte che non mi sembra neanche un uomo di chiesa, o è il perfetto erede di Pio XII. Lo sai chi era la voce? Del Barone Nero, secondo me, la voce in sottofondo. La voce è quella che annuncia. Il Barone Nero. D'altro personaggio da internare. Comunque ti voglio dire questo, ma lo svelerò nel corso della diretta. Sono a Pescara? Sì, si sente che sei a Pescara, dunque? Lo so, nell'ufficio di Razzi. Come nell'ufficio di Razzi? Cioè, tu stai facendo la diretta dall'ufficio del senatore Razzi, sì. Ma Razzi è in Calabria, non so dove. Razzi è in Calabria e mi ha dato il numero del suo ufficio. Sai qual è il suo ufficio a Pescara? No, qual è? Un centro massaggi. No, dai. Te lo giuro. No. Allora, pubblicherò tra poco le foto su Facebook, Twitter, eccetera. C'è la suite Tahala Tet con il lettino dove qualcuno ha già scritto che potrebbe avvenire, non l'EPN non avviene perché ho chiesto. Ma è un centro massaggi. È un massaggio cinese? Detto, cinese? Chiama, no, che cinese, italianissimo, centro di Pescara. Mi hanno dato, è in pieno centro, in via Carducci, non dico come si chiama perché... In via Carducci, conosco. Allora? Una marchetta. Andate tutti al centro massaggi a via Carducci a trovare Parenzo, ecco, ragazzi. Centro massaggi via Carducci. Però ti voglio dire di più. Chiamo Razzi. Razzi mi dice, senti la signora Rossella, che io pensavo fosse la sua collaboratrice. Invece? La chiamo, sì. Gentilissima, mi viene a prendere e mi dice, ah, io sono Rossella del centro massaggi. Dico, scusi, com'è il centro massaggi? Il senatore Razzi? Eh sì, questo è uno dei suoi uffici. Ma chi dite? Come uno dei suoi uffici? Alessandra Mussolini, nei Cara. Cara, sapete, sono i centri dove ci sono i rifugiati, o i presunti tali. Ci sono anche dei centri. Sono appena morti dei bambini, ti prego. Che me ne frega, scusa. Cioè, non che me ne frega della morte dei bambini, non si può fare non si possono fare discussioni sull'immigrazione perché sono morti dei bambini. No, ma bisogna avere comunque anche un po' di, no? Dai. Ma un po' di che? Ma di che parli? Nei Cara ci sono anche dei. E pazienza, bambini. Va bene, pace all'anima loro. Nei Cara, pazienza. Pace all'anima dei bambini. Muore un sacco di gente nel mondo ogni giorno. Nei Cara ci sono. Ti rendi conto di quello che stai ogni dicendo, giorno cioè... muore un sacco di gente. Se mi devo mettere a piangere per ogni persona che muore, non finisco più. Devo piangere ogni secondo di ogni giorno. Ma muore gente di fame, muore gente ammazzata, muore gente investita. Morti, cercavano, va bene, pazienza, ma che devo fare? Gioia e la libertà, ma mi devo mettere a piangere? Mi devo mettere a piangere di fronte a questa cosa? Se mia figlia fosse nata dall'altra parte del Mediterraneo, se mia figlia fosse nata, vergognati di questa cosa. Io probabilmente avrei fatto la stessa cosa, cioè sarei partito con lei per darle felicità, gioia e libertà. Ma smettila. E tu e questi altri stronzi che stasera chiamano, che sono lo 0,5% della popolazione intelligente italiana, sono 0,5, tutto il resto è la maggioranza silenziosa, quegli stronzi che chiameranno devono essere, perché quella fottuta Lores che è nata da questa parte del mondo, magari fosse nata dall'altra parte, io l'avrei accolta se fosse nata dall'altra parte e se avesse... Ma che c'entra Lores? La fottuta Lores. Napal! Secondo la Mussolini nei Cara ci sono anche dei centri yoga. La verità, direttore, è che nei Cara, dove ricordo ad Esposito, ci sono anche dei centri yoga. Un attimo. Dei centri yoga. Yoga, eh? Cioè pagano il yoga, lo psichiatra, lo psicologo, sì, il medico. E la gente non ha il servizio sanitario. Beh, adesso questa dei centri yoga mi è del tutto nuova, caro Parenzo. Cioè, secondo la Mussolini, nei Cara ci sono anche dei centri yoga. Dei centri yoga pagati da noi. Dubito che sia così. Comunque ti voglio segnalare l'introduzione alla puntata di ieri sera di Belpietro. Senti. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Vedete, questo che avete appena sentito è il racconto di una ragazza che è stata violentata da un immigrato che non doveva stare qui, che doveva essere rimandato a casa perché era irregolare, non aveva nessun diritto di rimanere in Italia, ma purtroppo non è stato rimandato al proprio paese. Beh, la trovo stupenda. Capito? La ragazza violentata da un immigrato. Era uguale a Crozza, stupenda. Era Crozza, era. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacquo i coglioni, hai capito? La Zanzara. Crociani, sono 5 minuti che guardo la diretta su internet del programma e ti sarei scaccolato 30 volte. Spengo tutto e torno alla radio. Ciao. David, ho appena imparato una parola in ebraico solo per farti una domanda. Quanto ce l'hai lungo il tuo zinna? Bacio. Che vuol dire zinna? Dottore, fatto l'appellitivo per Scala, ufficio Lazzi. No, però adesso la parola zinna me la devi tradurre, sennò chiamo Annuna, eh. Cioè, che vuol dire zinna? Il pene, il cazzo, il pisello, è chiaro, no? Cioè, mi pare evidente. Traducilo in maniera semplice. Trattasi del penis? Trattasi del penis, sì o no? Trattasi del... sì, esattamente. Lo zinna. No, però, vabbè, ci sono diversi modi per dirlo in ebraico, perché è una lingua molto ricca e anche in materia viene, come dire, definito in più modi, diciamo così, ecco. Allora, tra l'altro, ragazzi, voi che siete microdotati, è una che ti si vuole scopare. Che siete microdotati. Ma è uscito? No, ma che è uscito? Altro che questa. Sta avvelenata questa. Allora, c'è un tizio, un ingegnere di 50 anni in Inghilterra che si chiama Ant Smith, che ha pubblicato un libro che è la Bibbia del pene piccolo. Cioè, che è una cosa molto consolatoria per chi ha delle micro... Perfetto per Andro Mercù. Ma no, adesso perché devi infamarlo così? Cioè, perché... No, non è infamato, stai... che purtroppo si sa. No, ecco, perché stai infamando da tempo il signor Mercù, che magari può avere anche un suo seguito, dicendogli che ha un pene minuscolo. Cioè, ma guarda che è incredibile. Cioè... No, è che abbastanza purtroppo è risaputo, nel senso che lo dico, cioè, a Trieste. Allora, poi, per carità, questo signore ha pubblicato un libro che si chiama Small Penis Bible, la Bibbia del pene piccolo, capito? Per praticamente consolare quelli che hanno dimensioni molto molto ridotte, capito? Ma molto molto ridotte, perché le sue dimensioni sono 3 cm a riposo e 10 scarsi quando è eretto. Così. Ma questo è un argomento che voglio introdurre così a babbo morto, non perché sia un argomento fondamentale, è un argomento che introduco a babbo morto così. Voci di musulmani prese dalla gabbia. Senti, ecco. Senti cosa pensano delle donne. Se togliere il velo vuol dire che è una, cioè, una troia. Un po' essere obbligata una persona di mettere il velo. Se togli il velo sei una troia, dice un giovane musulmano. Nei paesi arabi c'è ancora il rispetto di come vestirsi, sono abituati a insegnare ai loro figli di vestirsi in modo elegante, perché è ovvio quando tu vestita corta vieni stuprata. Quindi tu dici è colpa di come si è vestita anche la ragazza? Eh sì, è la donna che era vestita troppo corto. Ancora una voce, le donne devono stare solo in casa, solo casalinghe. perché è uomo è più della donna qua, lavorano, non tutti che abbiamo una... Perché la nostra donna non lavora? La donna per solo la casa. Cioè, quindi la donna deve fare la casalinga e basta? Sì, sì. Secondo un imam, sempre in questo servizio della gabbia, la donna è obbligata a coprire le sue curve. Ragazzi, comunque quello è quello che pensano tutti gli islamici, eh. Cioè, che ne dica Parenzo? Tutti gli islamici pensano che le donne debbano andare più coperte. Debbano andare più coperte, questa è la realtà. Tutti gli islamici pensano questo. Tu dirai, lo pensano anche molti italiani, però molti islamici, per questo a me non, proprio mi stanno sui coglioni, devo dire la verità, che a me l'Islam mi sta proprio sui coglioni per questa cosa qua. Ma come qua. Si fa a dire una bestialità sì, simile? A me l'Islam, quando... Ma stanno tutti sulle palle, perché anche gli ottimi, i buddisti ti stanno su, antipatici... Quello per un altro motivo, per un altro motivo. Questi qua, per quello che pensa, per quello che pensano delle donne, mi stanno sui coglioni, lo posso dire o no? Ma non è vero, Abdallah Kabakeji. Oddio, questo Kabakeji mi ha fatto due palle così, dai. Ma rispetta molto. Ma anche la moglie è tutta coperta, ma non la vedi che è tutta coperta la moglie, quella che sta in consiglio comunale? È tutta coperta! Ma dai, su! Un passaggio qui nell'ufficio di Razzi. Ma scusa, guarda che è incredibile! Cioè, la moglie di Kabakeji è tutta coperta! Tutta coperta! Ma si può andare in giro così? Ma una cosa medievale, ma non bisogna andare in giro così! Se a lei piace. No, ma perché dietro quella roba lì, dietro. Te, che te ne frega. Ma perché dietro quella roba lì c'è una concezione della donna? Ma capito? Se non c'è, io la conosco la moglie di Abdallah, non ha nessuna violenza. Lei pensa che lei ha scelto lei così, nessuno gliela imposta. La donna è obbligata a coprire le sue curve, senti. La donna è obbligata di coprire il suo corpo, che non si vedono le sue curve, che siano viste solo la faccia e le mani. Ma questo non è un po' limitare la libertà della donna? Cosa vuol dire Islam? Vuol dire sottomesso. Sottomesso a cosa? Agli ordini di Dio e del profeta. Questa è la religione dell'Islam. Questa è la religione di Islam. Questa è la religione di Islam, capito? Capito la porcheria dov'è? No, ma questo capito? Lo pensano, dai, su. Questo lo pensano alcuni, tutti, fratello tutti, mio. Alla fine lo pensano tutti così. Il 90%, se no non sono islamici, se no sono così all'acqua di rose, dai. Marco d'Arezzo, dai, se no sono un'altra cosa, dai. Marco. Sì, dimmi. Allora. Io dicevo una cosa, no, voi state difendendo a spada tratta, va bene? Ma io non ho una spada tratta, sì, ma no, che no, dobbiamo no, fare, no, amico no, mio? Fammi perché... parlare anche a me, Cruciani. Dimmi, dimmi, Marco, dimmi. Io ti ho detto che come radio vi rispetto perché mi piace tutte le sere l'ascolto, finché quando posso l'accendo. Allora? Perché, allora vi volevo dire che Striscia la notizia, se è vero che anche dopo 2 anni fate a vedere in fondo... Quelli sono i soldi, non è come Radio 24 che vivete degli sponsor. Lì siamo noi che ci paga. E certi personaggi, secondo me, anche in questo modo. Cioè, il fatto che paghiamo noi, il fatto che paghiamo noi deve impedire a Insinna di esprimersi in quel modo? Cioè, no, infatti, no, non si deve comportare in quel modo. Secondo me ha sbagliato. Se voi lo volete difendere perché volete prendere un principio per avere uno spunto anche per voi, per la radio, questo fate anche voi bene. Però. Dico semplicemente una cosa, che ma quello non ha insultato la gente, ma non potete ingannarvi, Marco, non ha insultato delle persone pubbliche, ma chi ha insultato Striscia la Notizia? Non hai capito ancora, non ha insultato la gente pubblicamente, il signor Insinna. Cioè, hanno rubato delle conversazioni, almeno da quello che sappiamo, private, o comunque in un luogo privato, non in una trasmissione, e le hanno date. Quelle hanno fatto magari anche bene a pubblicare, va benissimo, ma non è che ha insultato la nana di merda, eccetera, lo ha fatto in pubblico, ha fatto in privato. Ora, che cazzo c'entra? Può essere dannoso per la sua immagine, quello che ti pare, ma non c'entra nulla con quello che dici tu, perché Bravissimo. È pagato da noi, allora non può permettersi di insultare. Bravissimo. Ma chi ha insultato chi? Non ha insultato nessuno, l'ha fatto in privato e poi l'hanno inculato, dai! Mi fai fa un confermo da era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con Ezebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete essere chiamati da Sgarbi mentre caga sul cesso, o avete prenotato un viaggio in Terra Santa e state bestemmiando tutti perché Molise era più vicino, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete far cagare Cruciani nel vostro cesso di casa quando lo cacceranno dalla Pricewaterhouse, o volete prenotare un massaggio romantico al vostro cane, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al cagato! E professor Sgarbi ha finito di evacuare? Davide, perché non vai a cagare lì nell'ufficio di Razzi a Pescara? Cioè, no, vai... in realtà è un centro massaggi, cioè non sì, è ma che... vai nel bagno ad evacuare, cioè lascia una traccia, lascia una traccia in quel bagno, nel bagno dell'ufficio di Razzi a Pescara, che in realtà è un centro massaggi, abbiamo scoperto, ma uno degli uffici di Razzi. Non ne ho alcun bisogno. Allora, pare che questa sera Striscia la Notizia leggeranno un passaggio del libro scritto nel 2012 da Insinna, neanche con un morso all'orecchio, in cui a pagina 84, nel capitolo intitolato L'infermiera stronza, racconta l'incontro con un'infermiera bassetta, bruttina, con gli occhiali, guarda e parla con l'inevitabile rabbia che hanno a volte in corpo le donne basse, bruttine, con gli occhiali. Questa infermiera è quella che vuole fare entrare nella stanza del padre solo due persone. E poco dopo, in un capitolo che si chiama Vedrai che andrà tutto bene, a pagina 88, Insinna descrive la sua possibile reazione dopo la decisione dell'infermiera di lasciarlo fuori. Arriva alla sua auto, apre lo sportello e non fa in tempo a salire, arrivo da dietro, la prendo per il collo e le sbatto la faccia contro la sua automobilina nuova, comprata in 16 comode rate. Perde sangue dal naso ma non è svenuta. La giro verso di me perché mi guardi dritto in faccia. Oh, mi senti? Allora senti bene, brutta testa di cazzo, non ti azzardare mai più a lasciarmi fuori dalla stanza di mio padre. Il regolamento te lo ficchi dritto su per il culo e vedrai che provi anche un po' di piacere. Ce l'hai un padre? Rispondi, brutta nana stronza. Cioè, è incredibile come la parola brutta nana o nana stronza ritorni. Ma dai, ma adesso, ma veramente è un'aggressione a mano armata. Ma mi pare questa. Evidente che è un attacco frontale. Senti è quello che dicono. È un'aggressione inutile e stupida, peraltro, nei confronti di un ma loro inutile concorrente. E stupida, ma fanno. Striscia la notizia, ragazzi. Ma che ti puoi. No, ma non è vero, perché invece. No, ma ragazzi, ma Striscia. Una volta facevano ma non dire cose stronzate, diverse. L'hanno sempre fatto. Hanno sempre rotto i coglioni a chiunque. E allora giustifichiamo questo. Io non sto cosa giustificando, perché... io sto dicendo semplicemente che Striscia. La notizia ha fatto di tutto, certo, non c'è dubbio, nei confronti di un concorrente che è pure bravo e che gli fa un mazzo tanto. No, e non quindi... gli fa un mazzo perché credo di no, ma comunque al di là di questo non è questo, una controversia vecchia quella tra Striscia la Notizia e Insinna. Sì, ma ho capito, ma ci sono metodi, questa è una Striscia guerra non Notizia utilizza qualsiasi cosa, ecco, questo è una tutto. Guerra non convenzionale, possiamo chiamarla così, come vabbè. Usare l'atomica, stanno usando una bomba atomica rispetto a una baionetta e quindi queste senti, sono senti, le cose senti. Insinna usava il pianto e il dolore dei concorrenti come precisa strategia comunicativa per alzare gli ascolti, altro che una lacrimuccia. Insinna, allora è proprio vero che menti per mestiere. Tu i concorrenti li hai sempre usati come merce per aumentare gli ascolti. D'altronde, quello che pensi di loro l'hai detto tu stesso. Va bene, ragazzi, andiamo in provincia di Bergamo. Mohamed, buonasera, Mohamed, vai. Buonasera, Parenzo. Dimmi, no, sono Cruciani, comunque va no, bene. Buonasera, Parenzo, non a te, ho visto che tu non saluti mai. Non ho capito, non ho capito, Mohamed, dimmi. Allora, alaikum, Mohamed. Waalaikum salam. Sì, allora, vuoi salutare solo Parenzo? Ecco, anche a te non ti piace il saluto, perché sei un po' maleducato, allora non è il caso di salutarti. Vabbè, non mi salutare, va bene, vai avanti lo stesso, vai. Allora, io ti ascolto tutti i giorni e più ti ascolto più mi stai sul cazzo. Sì, poi? Perché esageri, tu sì. Inciti all'odio. Io incito all'odio, all'odio, voi no, sì. Voi no. No, per niente. No. Allora, tu hai fatto ascoltare quei tre mongoloidi che hanno parlato prima. Sì. Dicevano che la donna va un sacco di stronzate, insomma. Sì. Perché voi giornalisti, sì. Non è che fate ascoltare tutto, solo quello che fa comodo a voi. No, io ho ascoltato quelle robe lì, ma più o meno, cioè, alcune cose sono condivise da molti islamici, eh? No, da molti sì, ma non credo che la donna è obbligata a stare a casa, la donna deve obbedire all'uomo, sono tutte fesserie. E invece tu come la giudichi la donna? La donna è normale, la donna è come l'uomo, anzi, in certe volte è meglio dell'uomo. Sì. E il tradimento della donna? Non mi sembra una cosa giusta, sia dall'uomo che dalla donna. Non è che l'uomo potrà dire la donna no, la donna potrà dire l'uomo no. Senti una cosa, la donna come può andare in giro secondo te? Deve essere un po' coperta, è meglio che sia un po' coperta? No, allora, devi vestirsi come le pare. Sì. Ho visto che la donna qua, all'Occidente, sì, può andare nuda come le pare, allora anche la donna da noi può vestirsi come le pare, può mettere il velo, Tu vivi può mettere quello che vuole. Sì, ma certo, ma tu come pensi che le donne qui vadano in giro troppo svestite, secondo te? Non è bello? Sono affari io non giudico le donne. Ma tu sei italiano praticamente, sei un islamico così, sono all'acqua di rosa. Sono un cittadino italiano, sono 25 anni che sono in Italia. Ecco, appunto, sì, sei perfettamente integrato. No, non solo perché sono qua, per quello che ma sono diventato così, no? Preghi? Quante volte preghi? Certo. 5 volte al giorno. 5 volte al giorno. Senti, ma che preghiera è questa qua? Aspetta un attimo, fammi sentire un attimo una cosa. Questa che preghiera è? Senti. Aspetta un attimo. Quale preghiera? Aspetta. Il richiamo del Muezzin alla preghiera. Salvo parento. Almeno uno è informato. E il richiamo prima della preghiera è usanza che il Muezzin faccia il richiamo ai fedeli andare a pregare. Bravo parento, è bellissimo, una melodia straordinaria, non capisco perché è una cosa meravigliosa da ascoltare. Ma che è meravigliosa da ascoltare, ragazzi, è una cosa inquietante, è una melodia straordinaria. Guarda, questa aspetta, è sempre quello, è il Muezzin che invita alla preghiera. Aspetta l'invito prima della preghiera. Mamma mia, ragazzi. Aspetta. Cosa che ti è strano? Cosa che non ti è piaciuto? Non mi piace, non mi piace. Devo dire che mi piace, non mi piace. Ti piace perché tu sei cattivo. No, in ma ragazzi, è meraviglioso immaginare le città di domani con il suono delle campane e la voce del Muezzin. Questo è il futuro. Aspetta, mi c'è la bomba, c'è la bomba che sta scoppiando. Aspetta. C'è la bomba, c'è una cosa, c'è una bomba orologeria che sta scoppiando. Bomba? Chissà perché si è innescato un meccanismo, la bomba che esplode. Quale sai, bomba? Quando c'è il Muezzin o quelli sono islamici di mezzo, è possibile sempre che scoppi una bomba. Come dire, no? Caro Mohammed, chissà perché gli attentati di recente sono commessi spesso da islamici. Spiegami, come mai? Come mai? Sono persone malate. Sono persone malate. Perché sono sempre islamiche? Sono strumenti di Occidente? Sono strumenti di Occidente, secondo te? Non dico quello, ma è qualcuno che le ha mandate su quella e via. E chi sono? Anche occidentali, secondo te? Non lo so. Servizi segreti. Vado a dire servizi segreti o una fesseria? Perché è una cosa che non posso sapere né io né lei. Antonio Varese, vai Antonio. Anchiuletela. Questo è perfettamente italiano, eh? Anchiuletela. No, no. Antonio, vai. Sì, volevo dire a Cruciani. Sì, dire che tutti i musulmani sono per le donne in casa. Non si sente un cazzo, è Egidio da Prato, vai. Pronto, sì, buonasera. Dimmi Egidio, dimmi. No, voglio dire questo, ma io penso che gli italiani, tipo Parenzo, non si rendano conto che questi islamici, è vero quello che dicevano, sottomettano le donne, sono venuti qui in Italia, in Europa per conquistarci, ma quando se ne renderanno conto questi ben pensanti italiani? Purtroppo quando arriverà il momento, come tutti questi immigrati che arrivano, che adesso gli danno da mangiare, ma quando finiranno i soldi che non avranno da mangiare e non avranno il telefonino, questi sono facile preda degli integralisti e li istigheranno a fare casino. Parenzo che dice? Queste sono le solite analisi di persone che partecipano dalla vostra parte, noi con Salvini, voi con Cruciani. Stai dicendo che Gidi è un cretino, sostanzialmente. No, tecnicamente non è un cretino, è un male informato, è uno fomentato dal cosiddetto partito dell'odio e della paura. Ma quale partito dell'odio e della paura? Se questi islamici, che si vede, queste povere donne con il caldo, che io vedo a Prato siamo pieni di questa gente. Tutte coperte, tutte coperte. Tutte coperte, ma che sia una loro, il marito avanti e loro dietro con i figlioli, sudano. Ma come fanno a essere? Molte di queste donne se scelgono di agghindarsi in questo scelgono, modo, hanno paura, lo fanno per paura e basta. Quelle che l'hanno fanno per paura lo hanno denunciato e se ne sono e si sono. Ma denunciano in poche, perché la stragrande maggioranza non denuncia. Non denuncia, questa è una religione. Vabbè, è arrivato il liberatore della donna islamica. Ecco, ma no, non è questione. Faseil, Bergamo, ciao Gidio. Faseil, stasera chiamano molti muslim. Faseil, vai. Pronto? Dimmi, Faseil, dimmi. Vabbè. Ma Cruciale, noi dobbiamo, scusami se ti interrompo, noi dobbiamo far diventare questa radio il cuore della multietnicità italiana. Quindi grazie per la tua chiamata. Spargi la voce agli altri fratelli, alle altre sorelle. Invadete ogni giorno il centralino dell'800 24 0024. Sì, sicuro. Fate sentire. Ma chiamate, chiamate pure. Milione. Vai, chiamate. Faseil, certo, dimmi. Tanto, dimmi, Faseil. Tanto voi capire qual è il problema, cioè, di Cruciale. Cioè, tanto voi volete conquistare, no? Il vostro obiettivo è la conquista. Conquistare cosa? Mi sembra che l'obiettivo dell'Islam sia la conquista. Conquistare il numero di telefono per chiamare. Ma questo mi pare abbastanza evidente, scritto dappertutto. Cioè, la conquista, l'Islam vuole conquistare le altre, cioè vuole conquistare gli posti in cui si insedia. Non è così, va bene. Ma te cosa hai nel cervello, Cruciale? Io non riesco a capire. Faseil, stai pregando, stai iniziando il Ramadan tu? Ecco, invece di prendere un'iniziativa per fare gli auguri a tutti i musulmani, no, ma che me ne frega a me di fare gli auguri? Che me ne frega a me? Se ne frega un cazzo, non parlarne, basta. Faseil, no? Com'è che inizia il Ramadan? Com'è Faisal, non Faseil, io mi chiamo Faisal. Come io pronuncio il tuo nome, impara a pronunciare. Ma che ne so, è scritto male qua, è scritto male, mi hanno scritto male. Allora che vuoi da me, dimmi. No, che tu la devi smettere, basta. Punto. Di che cosa? Di fare cosa? Se non ti interessa l'Islam, non parlarne, basta. Alla finita, no? Ma che ne sai? Che mi devi dire tu che cosa dire o no quando parlare allora, dell'Islam? Ma tu come ti permetti? Io non ho capito come ti permetti? Ma mica siamo, certo. Non siamo in Arabia Saudita qui. Qui è l'Italia, si può parlare. Si può parlare liberamente, per allora, fortuna. Anche certo. Certo, dilla. Aspetta un attimo. Aspetta. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo, pentiti di Parenzo. A me ne piace Osticcio. Sei Asmodeus. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. I clienti EasyJet rispondono. Bentrovati, oggi parliamo di viaggi d'affari e mobilità con Nicolò Grosoli, marketing manager di Just Eat in Italia. Qual è la vostra esperienza e scelta? Just Eat è il servizio leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio. Viaggiamo sempre con EasyJet, che come noi propone varietà di offerta, scoperta e innovazione, mettendo a disposizione numerose soluzioni sia da Malpensa che da Linate verso i principali aeroporti europei. EasyJet mi permette di acquistare biglietti a prezzi contenuti e utili opzioni aggiuntive come ad esempio poter avere l'imbarco prioritario, la scelta di un posto con più spazio e la possibilità di modificare l'orario del volo in base ai meeting di lavoro imprevisti o annullati. Tutti elementi fondamentali per aiutare chi come me viaggia spesso per lavoro. Tutti i dettagli su www.easyjet.com. C'è una fiera in cui le aziende incontrano e selezionano i loro nuovi agenti di commercio. Forum Agenti Roma, l'unica manifestazione interamente dedicata ai colloqui di ricerca agenti. Per partecipare come espositore, vai su agenti.it e clicca su Forum Agenti Roma, forumagenti.it, dove le aziende incontrano gli agenti. Ma quell'automobilina che hai sempre avuto, quella che ti ha regalato papà, che ti piaceva tanto, dov'è? Che hai fatto? L'hai rotta? Non l'ho rotta, l'ho rottamata. Lo sanno anche i bambini. Torna la super rottamazione Opel. Su corsa fino a 5.000 euro per qualsiasi auto da rottamare, anche con meno di 10 anni. Gamma corsa da 9.750 euro. Super rottamazione Opel fino a 5.000 euro. Solo a maggio. La digitalizzazione sta guidando il futuro dell'energia, segnato da una profonda evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business. ABB, da sempre protagonista nel mondo dell'energia, offre prodotti, soluzioni digitali e servizi avanzati di gestione integrata in tempo reale per una rete elettrica più forte, intelligente e sostenibile. ABB, una competenza senza confronti, al servizio del futuro dell'energia. ABB, let's write the future together. Il 27 e 28 maggio, per Cantine Aperte, scegli l'Abruzzo. Movimento Turismo del Vino Abruzzo. Siamo noi, produttori di territorio. Progetto realizzato con i fondi del PSR Abruzzo 2014-2020, misura 3, sottomisura 3.2, anno 2016. La Zanzara. Quel nano malefico. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. E che cos'è? Ma si può sopportare una cosa del genere, dai? Ma è normale, ma secondo te? Ma è normale, secondo te, tu... una religione che chiama quello che fa? Ma tu devi offendere milioni di persone. Dai, su! Ma uno lo fa con i megafoni. Dai, su! Ma scusami, ma che differenza c'è tra su. Questo e il Papa che dice la messa dell'Angelus la domenica? Come sai, come sai. Sì, ma è diverso il tono, è molto aggressivo, capito? Ma qual è il tono? Non c'è nessuna aggressività. Fai sal. Parenzo, lascia perdere, è una causa persa quello là, è ignorante. Ma questo non è, fratello mio, come si dice merda in arabo? Lui è merda. Ma lascia perdere, tanto non lo capirà, cioè la pizzino la merda è Faisal, come mai tutti i terroristi adesso si riferiscono tutti. Sì, scusami. Ma sai cosa stai facendo te adesso? Che sto facendo? Dimmi. Sai cosa stai trasmettendo? Insulti le persone. Insulto, perché ho mandato un muezzin, ho mandato un muezzin. Ma cazzi tua cos'è? Un muezzin. Ti ha cercato. Ma perché, amico mio, perché... qui non siamo in Arabia Saudita, capisci? Ma qui siamo in Italia. Non allora, siamo un paese libero, libero dove si può libero, prendere anche per il culo, chiaro? Ma libero, chiaro? Mica come te, però tu sei prigioniero, tu non sei. Senti, libero. L'altro giorno il signor Sallusti ha detto l'altro giorno che lui vuole bestemmiare Allah, che è giusto bestemmiare Allah, è giusto bestemmiare Allah, ha scritto. Allah. Per dire una cosa così. No, così. Per fortuna è un pezzo di merda. Come tutti gli pezzo altri, di merda, pezzo di merda, benissimo, segniamo, pezzo di merda. Segna, guarda, io ti dico. Allora, Faisal, per fortuna è un paese libero, è un paese libero. Sì, è un paese, ma io vivo qua da 30 anni, coglione, riesci a capire o no? È un paese libero, questo qua. Vivo qua da 30 anni, io ho una famiglia, ho due figli. Ma tu riesci a capire questo? Sì, tu o no? Credi in Allah? Certo che credo in Allah. Allora, è vero che al versetto 29 della Sura 9 del Corano è scritto: combattete coloro che non credono in Allah e quelli fra la gente della scrittura che non scelgono la religione della verità. C'è scritto questo o no? C'è scritto. È vero? Ma io non mi permetto neanche di giudicare una cosa così. Ma stai buono. Cioè, tu sai, cioè, sì. Bisogna che è una religione di pace. Allora, che cos'è? Una religione di pace? È una religione. È una religione di pace? È una religione di pace? Certo che è una religione. Tutte le si vede, sono una di religione pace. Di sono pace. Sono i coglioni come te che le fanno. Guarda, tutte le religioni sono di pace. Non esiste una religione dove. non ci sia pace. Tutti sì. sono di pace. Dunque, vabbè, facciamo un esempio: Maghi di Cristiano Allam è un coglione. Maghi di Cristiano Allam è un coglione. Quello che è, passato, che è diventato cristiano e dice che l'Islam è intrinsecamente violento è un coglione. Ma perché? Ma ognuno è libero di scegliere dove vuole andare. Perché deve essere un coglione? No, per quello che dice. Dice che l'Islam è violento. Dice che l'Islam è violento per quello che dice. È un coglione? Dice che l'Islam è intrinsecamente violento. Ma lui chi è? Per e tu chi sei? Me. E tu chi sei? Ma io non so nessuno, però io non giudico nessuno. Ma noi siamo qui per giudicare. Io siamo... rispetto tutti, io lavoro con ebrei. Faisal, perché hai chiamato? Faisal, perché hai chiamato? Ho chiamato perché la devi smettere, basta. E perché la devo smettere? Perché lo dici basta, tu? Basta. Ma perché lo dici conviene, tu? Non conviene a nessuno queste cose qua. Lascia stare le religioni, per favore. Lascia stare le religioni. Parla di Napi, parla di Sgarbi, di quello che vuoi. Aspetta, facciamo un altro. Le persone senti stanno rispettate. Senti. Se richiamo allora cioè, dov'è il problema? Il problema è dov'è? Molto aggressiva sta cosa. Ma cosa aggressiva? È molto aggressiva. La trovo molto aggressiva. Senti, vabbè. Senti il tono aggressivissimo. Sì, ho capito come stai provocando, ma non è tanto non riesci, io so quello. Cioè, il tuo cervello è limitato, più di quello non può andare su. Ciao amico mio, Fabio Catania, ciao Fabio. Affanculo, vai. Fabio Catania, alla fine scappa sempre da fanculo. Faisal, signor Faisal. Mi senti? Fabio, signor Faisal. Tu combatti ogni sera con tutti gli ascoltatori. Posso combattere io con qualche muslim oppure no? Mi permetti di combattere con qualche muslim? Fabio da Catania. Ma tu assolutamente puoi fare quello che vuoi. Dico, c'è un concetto di fondo. Qual è il concetto che di fondo? Che l'informazione fatta in questo modo è soltanto veicolata. Appunto per dare da mangiare. Veicolata per dare da mangiare a chi? Ai partiti dell'odio. Ma chi quando sei? Chi sei? Parenzo? Parenzo in gonnella? Parenzo in miniatura? Gonnella Parenzo da Catania? Perché ti offendi? Ti offendi se ti dico in gonnella? Ti offendi se dico in gonnella? Che fa? No, sei anche omofobo? Sei anche contro i gay? Ma veramente tu forse lo sarai. Comunque, non cambiare allora, discorso Fabio, e fammi finire di parlare, grazie. Dimmi, dai. Tu hai trasmesso sempre tre stralci di informazione. Sì. Tre stralci di informazione della gabbia. Di informazione della gabbia. Di servizi della gabbia. Sì. Dove sono stati intervistati tre personaggi, o comunque tra gli altri intervistati tre personaggi di religione o di presunta tale musulmana che dicono che le donne non vanno rispettate o vanno vestite con... Sì, Fabio. Allora, collegati meglio però, dai, forza, vai. No, collegati meglio, fammi finire. Vai. Nel momento in cui tu vuoi veicolare un tipo di messaggio... Io non voglio veicolare nulla, ho mandato in onda questo. No, tu. Ah, la no, gabbia, tu. Parlo la gabbia. Dell'informazione fatta in questa maniera. Cioè loro vogliono, tu secondo te, pilotate in modo da comunicare... Che gli islamici sono tutti estremisti. In un quartiere popolare siciliano qualunque, dove c'è... un certo tipo di arretratezza, gli chiedi ma la donna dove deve stare? Quasi qualcuno che trovi che ti dica che debba stare a casa lo trovi sicuro, ma su 6 milioni di siciliani non è che tutti la pensiamo così. Stessa cosa sul scusami Fabio, ma al di là adesso dei giochi, al di là dei giochi e degli scherzi, amico mio, quello che pensano, ma al di là dei giochi e degli scherzi sulle cose serie. Sì, però scusami Fabio, scusami un attimo, ho capito quello che vuoi dire, ma non è che ne parlo io. Aspetta un attimo, non è che parlo io della posizione dell'Islam nei confronti delle donne. Ci sono i fatti di interi stati e di governi che hanno nei confronti delle donne un atteggiamento. Non è vero, non esistono gli stati in Occidente, è molto diverso. Non esistono stati occidentali che trattano le donne come vengono trattate in Arabia Saudita e in altri stati. Non esistono. E quegli stati sono islamici. Sono islamici. Io vivo e frequento, per mia fortuna, un ambiente multiculturale, tra cui anche di musulmani. Sì, allora che c'entra? Ma quelli non c'entrano niente, quelli non sono più musulmani in senso stretto. Non sono più musulmani. No, ma sono musulmani per modo di dire, sono musulmani. Quindi per te sostanzialmente tutto. Scusa, ciò ma che esiste musulmano... uno Stato come l'Arabia Saudita? Esiste da un'altra parte? A che religione si ispirano? A quale corrente? Fa parte sempre dell'Islam? No, una corrente ma dell'Islam. Esiste uno Stato di altro tipo? No, ispirato a un'altra religione? No, non c'è! Si ispirano a una corrente dell'Islam, non della religione cattolica, del buddismo, dell'Islam! Delle cose gravissime. Sarebbe come dire che Totò Riina, siccome cosa andava c'entra? Sempre in chiesa... Ma Ma che c'entra? Ma no, ma non vuol dire niente, non fare lo stupido, allora, dai, non c'entra niente. Era pieno di mafiosi, ti ricordi le sfilate dei mafiosi dietro i cieli? Ma che vuol dire, dai, ma non c'entra niente lì, con uno Stato, dai. I mafiosi si dicevano profondamente cattolici, ma non per questo direi. Alberto, provincia di Milano, dai, non era così, l'hai già detta questa cosa, ma è sbagliatissima. Alberto, provincia di Milano. Ciao Giuseppe. Sono rimasto colpito da come hai risposto all'islamico che sarebbe integrato da 30 anni a suo dire. Okay, non si può parlare della sua religione. Sì, non si può parlare dell'Islam, non si può scherzare sull'Islam. No, non si possono mandare i sermoni, non si può essere anche ignoranti sull'Islam. Uno può dire: sono ignorante sull'Islam, allora sono cazzi miei. Sono cazzi miei se sono ignorante sull'Islam. Cazzi miei, parlo lo stesso delle poche cose che so. Non sei tu islamico di Bergamo, ma io prendo per il culo chi mi pare. Capito? Se mi stanno sui coglioni perché trattano male le donne, dico che mi stanno sui coglioni, punto. Ma che generalizzazione? Ma quale generalizzazione? Guarda quello che succede nel mondo, dai. Ma scusami, come si deve sentire, ad esempio, Alberto, l'onorevole... Se quello tratta bene le donne, cazzi suoi, andassi in Arabia Saudita a fare una campagna contro l'Arabia Saudita. Come si deve sentire Khalid, l'onorevole Va benissimo, Khalid va benissimo. La sua religione è anche quella dell'Arabia Saudita. Se lo mette in testa anche Chauki. Se lo mette in testa la sua religione è anche quella che utilizzano. Ma e non che, è vero. E come no? Che cos'è? La religione è quella di Rina. Ma che c'entra non Rina? Dai, Alberto, non dire stronzate. Alberto, dimmi. Esatto, questa è l'integrazione di qua da 30 anni. Uno deve negare l'evidenza che l'Islam ha degli... ed è non tutti chiaramente, è una religione in parte violenta, in parte che contro le donne. Ma dai, ma una tale evidenza, una cosa del genere, che mi stupisce che Parenzo non lo riconosca, essendo pure ebreo tra l'altro. Ma Alberto, dai, io riconosco il fondamentalismo islamico, ma divido il fondamentalismo islamico di Al-Qaeda. Sì, vabbè, adesso comincia con l'analisi sociologica. No, non è un'analisi. Alberto, vai. Scusami, i figli... Mi fai sentire Alberto un attimo, dopo, dai, dopo Parenzo, abbiamo... parlare, va. Dimmi. Ho acceso prima, sono rimasto colpito dai passaggi del libro di Insinna, giusto? No? Sì, sì, sì. Allora ho pensato una cosa, ma non è un caso, perché evidentemente anche lì ce l'ha avuta a morte con una donna che faceva semplicemente il suo lavoro. Allora ho pensato, ma non è che proprio perché lui è froccia, ma non l'ha ancora voluto ammettere, è incantato con l'intero mondo femminile. Ma perché, Alberto, dai? Ma perché dovrebbe essere? Ma perché dovrebbe essere gay? Che ne so, io non mi risulta, non mi risulta che sia, non mi risulta sia omosessuale. La concorrente era una donna, incazzato nero senza alcun motivo, perché non c'era motivo concreto. Ma non mi risulta essere omosessuale, comunque non sarebbe un problema, chi se ne frega. Ma no, assolutamente, assolutamente. Ciao Alberto, ti saluto, ciao in gamba. Allora, abbiamo con noi Marina Ripa di Meana. Ciao Marina. Ciao carissimo, come va? Come va? Tutto bene? Andiamo avanti, sì. Ti stai riprendendo un po'? Ti abbiamo visto conciata un po' male recentemente, eh? Ecco, mi sono proprio conciata, come hai detto. Ma ti sei ripreso o no? Voglio salutare Marina Ripa di Meana. Ti saluto, cara Marina, e ti abbraccio fortissimo. Sono in questo momento in un centro massaggi, che tu in genere frequenti molto i centri massaggi, che sarebbe l'ufficio a Pescara. Poi volevo segnalare alla redazione della Zanzara, e ve lo faccio in diretta, e anche a Giuseppe Cruciani, che mi sta scrivendo arrabbiato il signor Picardo, il giovane Picardo, il quale dice: se volete mi chiamatemi, che ne dico quattro a Cruciani. Ma Picardo ne ha dette già di tutti i colori, lo chiamiamo, non ti preoccupare, lo chiamiamo. Allora Marina, ti fa paura l'Islam, Marina? Beh, oddio, chi non fa paura? È normale, cioè, ma è la reazione normale di una persona normale. Scusa, stai... Rina le fa paura, Rina? Ma che c'entra Rina con l'Islam? Parenzo, perché dici questo? Che c'entra Rina con l'Islam? No, voglio dire, mettere Rina andava sempre in chiesa. Ma che c'entra? Dai, non è la religione, non è la religione il fondamento della mafia. Non dire stronzate, dai, ma su. Ma non puoi dire, tu non puoi dire che il Khalid Chauki è una persona che ti fa paura. Senti, la domanda è questa. È un islamico praticante. Marina, ti fa paura l'Islam? Sì. Certo che mi fa paura, mi fa orrore. Ti fa orrore, cioè... A me fa paura l'ignoranza, non l'Islam. L'ignoranza, che state vomitando, l'ignoranza. Ma perché gli dici che è ignorante a Marina? Ma non dico che è ignorante, mi sta anche molto simpatica Marina Ripa di Meana, le voglio se bene. Se le fa orrore l'Islam, le fa orrore l'Islam, no? No, ma ti assicuro, le voglio bene. Poi l'altro giorno ho anche ballato con la stupenda figlia Lucrezia Lante della Rover, e quindi figuriamoci se non ho... Scusami, perché ti fa orrore l'Islam? Pronto? Perché ti fa orrore, Marina? Ma perché lo considero tutto talmente pericolosa, talmente quello che sta succedendo nel mondo, e alla fine l'Islam non si prende le sue responsabilità. Sì. Cioè, aveva ragione la Fallaci, dici tu, no? Aveva assolutamente ragione. Per me è un mio mito la Fallaci. Lei ha previsto e visto tutto in anticipo. Cioè, l'Islam moderato, il cosiddetto Islam moderato, non esiste. Non esiste. Non esiste. Non c'è l'Islam moderato, tant'è che nessuno ha preso posizione. Cioè, non è una, è una religione di guerra l'Islam. Non è una religione di pace, una religione di guerra. O no? Assolutamente non esiste l'Islam moderato. Vabbè. Esiste l'Islam. Basta, stop. Mi sembrano parole chiarissime. Scusa, dove ti trovi, cara Marina? Scusa, perché sento un casino tra me. Allora no, dovete andare fino in fondo, allora. Dovete dirla tutta. Cioè, dovete dire, ad esempio, sì, che l'onorevole Khalid Chauchi, perché dovete dirlo, perché minoranza questa, no, sì. No, dovete dire, lo dico a Marina, l'onorevole Khalid Chauchi, marocchino, assolutamente islamico, nel senso che è una persona molto religiosa, islamico, così dire che all'acqua di rose, pericolosa. Islamico all'acqua di rose. Hai paura degli islamici in Parlamento, Marina? Ma io ho paura di tutto quello che è Islam. Tutto quello che è Islam. Io non so. Non facciamo una fattispecie, un nome particolare, però cioè quando vedi Islam, vedi oppressione, trattamento della donna disumano. Sì, vedo persone che comunque, anche quelli che si dicono moderati, per dove stanno? Chi ha preso posizione? Si sono visti quattro gatti? Pochi. Ma avete letto cosa ha detto l'imam di Firenze? Avete letto almeno il Corriere della Sera oggi? Lo avete letto? Sì, ma non si sente la grande... Avete letto cosa ha detto l'imam di Firenze? Posso citarlo? Ma facessero una manifestazione contro il terrorismo! Tutte belle parole, ragazzi. La verità è che... E allora arrestateli tutti. Una donna coperta... Tu li manderesti via dall'Italia tutti gli islamici, Marina? Chi sono i... abbaia, cos'è sto cane? I Carlini, sono i Carlini. Io sono in piazza Cavour. Piazza, ma c'hai i Carlini? C'hai? Sì, c'ho anche Carlini, sì. Beh, stupendo. Quanti Carlini hai? Io ce n'ho quattro, ora ce n'ho tre soli perché quello più vecchietto non l'ho portato con me. Quattro Carlini. Allora, quanto cazzo costano i Carlini? Vi invito a leggere, oltre ai Carlini, leggi ai Carlini, cioè ai quattro cani, sì, quello che ha detto oggi l'imam di Firenze. Vabbè, il signor Izzeddin El-Zir, sì, imam detto di Firenze, presidente dello, sì, COI. Izzeddin El-Zir, sì, noi imam denunciamo, sì, gli estremisti. Beh, denunciassero. Allora, queste persone facessero una bella manifestazione mettendoci la faccia, noi ci fa schifo il terrorismo, facessero una bella manifestazione. Marina, no, le parole, no, per carità, non sono cose assurde, non c'è una manifestazione, sono solo parole di certi man che magari poveretti loro, uno solo sarà anche buona fede. Come l'hai chiamato? Il presidente della più importante e numerosa organizzazione islamica, presidente dell'UCOI. Capirai, appunto, ecco. Oh, ecco. Com'è che l'hai chiamato? Via, li caccerei via tutti, via. Tutti io gli islamici, tutti via. Tutti via. Allora, in attesa un attimo dei Carlini, e ti metti un attimo tranquilla, ma io ti sento benissimo, stranamente io ora sento... Ora mi sono seduta, c'è oh, stupendo, sei stupenda. Allora, in diretta da Piazza Cavour, insieme ai suoi Carlini, che credo che anche loro ogni tanto facciano dei massaggi, giusto? Dove vai, cara, stasera a cena alla barchetta? No, non vado alla barchetta, sto tranquillamente in giardino a casa mia. No, perché è meraviglioso, la barchetta si mangia benissimo. Stasera non sono di barchetta. Un'altra marchetta di Parenzo, così tanto no, per... No, nessuna barchetta, vedo spesso la signora Marina Ripa di me. Vado spesso. Parenzo, visto che seguiti a fare... marchette su marchette, perché non citi il mio libro che dovresti aver letto, Colazione al Grand Hotel, benissimo, Moravia, Parigi, li fai, li fai massaggiare i Carlini ogni tanto o no? No, ecco, cambi discorso. No, perché no, non no. Citi il mio, l'hai letto? Dopo il lo mio cito, libro, dopo, Valenti, lo, dopo lo cito. I Carlini, letto, i Carlini li fai massaggiare o no ogni tanto? No, nessun massaggio. Che fanno sti Carlini? Adesso girano sul prato, sono felici. Ma li compri il cappottino ogni tanto? No, me li regalano quasi sempre gli amici. I cappottini. Sì, c'è una collezione di cappottini anche con misure sbagliate che mi I regalano. I cappottini dei Carlini. E non li metto mai. Torniamo tra qualche minuto. Con la signora Marina Ripa di Mano abbiamo molte cose di cui parlare, tra cui soprattutto la questione del partito animalista che, devo dirti la verità, cara Marina, mi sta grandemente sui coglioni. Scusami se te lo dico. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Supermercato, esco fuori, ragazzo di colore che chiede a una signora se vuole avere una mano a caricare la spesa, la signora accetta, ringrazia, il ragazzo le carica la spesa e invece di lasciargli un eurino, una cacchettina, insomma, cosa fa? Gli sorride, lo guarda e se ne va. Ho detto, oggi sono della maggioranza silenziosa, sono andato lì e gli ho lasciato 2 euro. Per me, gli ho detto, e per la signora maleducata. Parenzo, siamo al top. Allora, torniamo subito con Marina Ripa di Meana in diretta da Piazza Cavour con i suoi Carlini. Con i suoi Carlini. Intanto però c'era una telefonata che mi è arrivata, cara Marina, da un tizio che si chiama Giusus da Torino. Aspetta, aspetta, sentiamo questo. Giusus, Giusus, dimmi. Ciao, miserabile. Sì, dimmi, che, da dove vieni, da dove chiami? Lorenzo, buonasera. Ma stai offendendo i musulmani? Lo sai che sei uno senza palle, te? Tu sei muslim? Ma perché non tu sei muslim? Sì, sì, sono muslim. Ma di dove sei? Marocchino, dove sei? Sì, sì, sono marocchino. E poi? Ma no, niente, per chiedere, sei marocchino. Perché sono italiano, Sì, sono italiano, certo. Di origine marocchina. Sono miserabile. Perché sì, sono sì, miserabile? Perché sono miserabile? Perché stai offendendo perché tutta cosa una ho detto? Comunità. Che cosa ho ma detto? Ma sai perché non me la prendo io? Sai perché? Perché? Perché tu odi anche i cristiani, ce l'hai con la religione cristiana, con il Papa. Ma non ho capito, dov'è l'offesa? Su che cosa è che sto offendendo? Spiegami. E stai dicendo che siamo tutti terroristi. Non ho detto questo, non ho detto. Che non è di pace. Beh, certo, non si può dire. Che non, l'hai detto. Non si può dire che è una religione di pace. Ieri dicevi: "Ah, ma no, ma sgozzano gli animali". Ma lo sai che... No, veramente non l'ho detto io. Io sono a favore dello sgozzamento degli animali. Per qua. Ah, no. Noi quando sgozziamo il rito islamico per la della macellazione... No, non hai detto per me va benissimo. Ieri. No, è un altro che ha detto. Ti sbagli. David, per favore, glielo puoi dire che il rito islamico e il rito ebraico sono uguali? Ma guarda che io non ce l'ho. Non c'è dubbio. Ti sbagli, ma io non ce l'ho con il rito islamico. Al macello di Casablanca arrivano al mattino gli ebrei marocchini, sì, lavano tutto con l'acqua. Ma qual è il tuo problema? Non ho capito. Perché non vai in piazza a protestare contro gli islamici che si fanno esplodere nei concerti in Inghilterra? Ma tu sei malato. Io perché? Sto lavorando, dove che devo andare alla coda lì? Io perché faccio 12 km al mese. E perché quelli si ispirano all'Islam? Perché si ispirano all'Islam, secondo te? Sono malati? Pronto? Yusus? Sì. Perché si ispirano? Perché si ispirano all'Islam quelli là? Perché? Ma sai che sono 2 o 3 anni che spero di capire cosa sta succedendo in Iraq e in Siria? Sì. E non l'ho mai ancora capito. Ah, perché secondo la te Serbia, ci sono la ci sono gli, ci sono ci, mesi. Ci sono gli occidentali dietro? Saddam si è arreso in un mese, no? E questi qua sono di 2 anni che dunque noi, c'è che lo, noi stiamo dunque dietro gli attentati. Lo sai che sono 2 anni che stiamo bombardando, spendendo 8,2 e dunque, stai dicendo che gli attentati in Europa sono frutto di che cosa? Non lo so io, ti sto dicendo che io sto cercando di capire questo ISIS, da dove arriva tutta questa forza, tutti questi soldi, tutto questo potere? Dunque, secondo te noi abbiamo qualcosa da farci rimproverare per questo che vengono a farsi esplodere qui? Ho detto, io ci no, sto è una domanda, dicendo, una domanda. Sono islamico, lo sai una cosa, io per ISIS, io e tanti musulmani in giro per il mondo, siamo apostati, sai cosa vuol dire apostata? Che uno che era musulmano poi è tornato indietro, che non è più musulmano, va bene. Che non è il nostro sangue, ti è saluto, la nostra vita. Yusus, ti saluto, ciao, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Ma perché ti sei fittato? Abbiamo con noi, dicevamo, Marina Ripa di Meana. Mari, senti una cosa, ma chi ti ha fatto fare lì a sto partito di essere favorevole a sto partito? Sì, continua a pregare qua il coso, il muslim. Io sono convinta che la come si chiama? La Brambilla sì, ha fatto delle cose molto importanti per gli animali. Amico, ma quella aveva un'azienda per lo stoccaggio di congelamento degli animali fino a poco tempo fa. Dai. Da quando si interessa per degli animali sono stati fatti passi avanti enormi. Prima non si poteva entrare in un taxi con gli animali o con i canetti. Ma non è vero, mica è stata non lei. Non si poteva andare su un treno perché, no, lei è stata bravissima, ma per dai. Cui molte cose possono fare. Ma è tutta ancora una roba strumentale con Berlusconi, con gli agnelli, è una roba patetica, dai, su. Ma che ti posso dire? Io penso agli animali, a tutti gli animali, penso che c'è bisogno di un movimento per gli animali. Ma perché non la mangi la carne tu? Non la mangi la carne? Molto poco, per la verità. Ogni tanto mi tocca mangiarla per ragioni di salute, ma non la mangerei. Mangio pesce, però, che è la stessa cosa. Beh, ho capito, ma anche i pesci che c'hanno meno delle no, vacche, appunto, scusa. Ma no, io non sono un integralista, però per gli animali sono stati fatti passi avanti che grazie a Dio ha fatto la Brambilla. Ma che Brambilla. Che bisogna dire che è stata bravissima, è una che si batte. Che ma ti sei iscritta a sto partito? Ti sei iscritta a sto partito? Io non mi sono iscritta a niente. Mi hanno chiamato, mi hanno detto se ero con loro. Ho detto sì, perché no. Sono con loro, il partito animalista. Ma a cosa serve, scusa? Ma non serve a niente, dai. È tutta una buffonata, dai. È una farsa. Buffonata dai. Per buffonata è una cosa che riguarda gli animali. E siccome gli animali mi stanno molto a cuore, meglio loro che i grillini. Ma come meglio loro? Meglio gli animali dei grillini, dici te. Questa è bella però, eh. Cioè gli animali sono... Intanto i grillini, la giunta della Raggi a Roma vuole eliminare le botticelle, che sono quelle carrozze con gli animali. Pare che la vogliono eliminare, una follia totale, sono una grande tradizione quella là, la vogliono sostituire. È vero, è una grande tradizione, bisogna tenerli, curarli. Non brava. Fargli sudare troppo, tenerli sudare come troppo, tradizione, poi è troppo carino. Ho capito, ma i cavalli sudano, amica mia, che ce frega se gli curarli, nel senso sapere che vanno curati, cioè lavarli a chi non li cura, questo voglio dire. Vedi, tu sei un animalista però, normale, che dici, le botticelle ci devono stare, perché le botticelle che le vogliono eliminare è una cosa, come dire, tradizionale, una bella tradizionale. Cosa. Che ce frega delle botticelle elettriche, pare che vogliono mettere quelle col motore elettrico, ma che se ne va. Ma che orrore qui, è una cosa, veramente un orrore tremendo. Guarda, un comunque orrore. Io sono per il partito animalista e vedrete che molte persone che amano gli animali. Io sono per il partito anti-animalista, il partito a favore dell'uomo, partito umano, umanista, non il partito animalista. Ma che è sta roba? Il partito animalista, dai. Ma su. Te gli animali li ami? Sì o ma no? Sì, mi piacciono, però ma normale. Non più di tanto, non ma più di sì, tanto, vabbè, non è che uno fa il partito. Ma quando ti capita di andare su un taxi col porti i cani dietro, vabbè, adesso, un cane dietro, però non è che si rifiutano, sì. O quando entri in un ristorante ma chi? E si ma rifiuta quando? Perché c'è un cane. E pazienza, la gente vuole stare senza i cani in mezzo ai coglioni quando mangia. Scusami, se te lo dico. Ma vabbè, io voglio stare con i miei cani. E ho capito, io non voglio un cane accanto che mi rompe le balle mentre mangio. Ma certo, non accanto, si può fare una saletta per chi c'ha i cani, hai capito? Questo può essere un po'. Scusami, io posso essere d'accordo di fare una saletta per i cani perché io sono sicuro. Io non è, vuoi obbligare i ristoratori a fare la saletta dei cani pure? Sono al ristorante e c'ho un cane che mi rompe i coglioni mentre mangio, dai, ma quella ci vuole, certo, naturalmente quella va considerata anche l'educazione dei padroni dei cani. Senti una cosa, non voglio stare, non voglio mentre mangio, non voglio sentire rah, sì, oppure dai. Se mi lecca il piede. Vabbè. Vabbè, Marina, quella io... allora equivale anche ai bambini, quelli che portano i carrettini e i bambini che piangono. Ma come uguale ai bambini che piangono? La stessa cosa. Ma non puoi paragonare i bambini che piangono ai cani che rompono il cavolo, dai, su. No, i cani non rompono per niente, perché spesso stanno lì accucciati e buoni, e i bambini invece piangono, frignano, pisciano, fanno di tutto. Vabbè, forse ogni tanto sono più tranquillo. Mi scrive Luca Sommi che mi sembra essere d'accordo con la signora Maria Ripa di Meana. Pubblica la foto di questi cavalli che traiano le botticelle, appunto. Sì, sì. E scrive Luca Sommi, quasi un poeta: che orrore, piegato alle richieste di umanoidi trogloditi, turisti idioti analfabeti che del mondo non conoscono a malapena il loro garage. Stop horse Rome. Cioè, il nostro Luca Sommi giustamente forse ci dice che... Giustamente, ma Luca Sommi è una persona intelligente, No, però è bella questa cosa. Ma è impazzito orrore. Completamente, ma che orrore, no, cosa? È l'orrore, le botticelle lette, le botticelle a motore. No, facendo vedere la foto del cavallo, dice, che orrore, piegato alle richieste di umanoidi trogloditi. Ecco, questi umanoidi trogloditi, sono quelli che chiamano in questa trasmissione, purtroppo. Allora, io non ci andrei mai in una botticella perché non me ne frega niente, ma se un turista ci vuole andare, qual è? Ci vuole andare col cavallo, mica a motore. Ma va benissimo, certo, il cavallo. Ma sto cazzo dei cavalli, ma sempre, che devono fare tutti i giorni poi? Sempre reminiscenze di Roma, by night, di Roma. Ma sì, dai. Sì, io non ho capito una cosa, scusa, di vacanze romane, certo. Cara Marina, perché ti sta su coglioni il gay pride a te? Però tu non puoi su una cosa. Ma non mi sta sui coglioni, mi stanno sui coglioni le discriminazioni, così come c'erano le femministe, e basta, l'ho visto, ci sono andata una volta, i gay oggi hanno una vita più felice degli etero, se possibile, che cosa se lamentano, che vogliono, che devono fare? Cioè, basta. Non c'è nessuno, ormai non c'è più niente di... Non c'è ragione di fare feste, di differenziarsi, se non si differenziano perché sono esseri come tutti gli altri, siamo noi, chi se ne frega se il loro sesso è diverso dal cioè, nostro? Cioè, è volgare, basta. Secondo te, il gay pride? No, non è volgare, è inutile, poi ci sono delle pernacchiate anche volgari. Vabbè, ho capito, ma se uno ogni tanto va con un po' di roba di fuori, ma che te frega, dai, cioè, non è ma, non so, ma non ce n'è bisogno, ormai non c'è più bisogno. Privilegi di noi. Addirittura, sono privilegiati, addirittura. No, privilegiati no, ma sono uguali, non c'è discriminazione, come dire, facciamolo... una manifestazione femminista, però non lo so. Ormai fuori tempo, dici? Ormai praticamente fuori tempo. Senti, ma hai sentito che c'è questa campagna pazzesca contro i vaccini in giro? C'è un sacco di gente che dice che non si vuole vaccinare, che è sbagliato, eccetera. Tu che dici? Ma sai, io penso che bisogna vaccinarsi. Penso che bisogna ma è giusto fare 12 vaccini, quello che vuole fare il governo, eccetera, o troppo? Questo no, veramente ti adegui. No, non è il mio campo, non posso dire, però sento che effettivamente quello di il ritorno al morbillo è qualcosa che mi viene da, insomma, mi stupisce. Senti, ma è questa roba con questa situazione economica, io voglio tornare sempre ogni tanto con te sulla stessa cosa, ma mi vergognate un po' a prendere 12.000 euro di coso? 12.000 euro? Questi sono fatti che riguardano 12.000 euro di vitalizio, ma che roba è? Chiama Carlo per carità. No, Carlo, sei tu più pimpante su queste cose qua, Carlo, che vuoi fare? 12.000 euro di vitalizia, amica mia, 12.000 euro. Gli sono stati dati, ha fatto questo di professione tutta la vita. Scusami, ma perché devi? Io su questo difendo Carlo. Ma 12.000 euro di vitalizio, ma cosa vuol dire? Ha lavorato, è stato un autorevolissimo commissario europeo. È stato commissario europeo per due mandati. Ma ho capito, che ma cosa volete da lui? È un signore che ha lavorato, ma fatto il vitalizio è una vergogna. Ragazzi, non ha fatto la doppia professione, non ha fatto ma è una vergogna il vitalizio, la politica tu non deve essere il vitalizio, non può essere a vita il vitalizio, dai, su ragazzi, chi ha fatto quello di professione gli è stata data, avete voluto la democrazia, siamo in democrazia. Dunque il vitalizio è giusto, il vitalizio è giusto. No, ma è giusto per una persona, non è giusto per chi ha fatto la doppia professione, che per chi l'ha fatto per due mesi, tipo un ma mese, è un'esagerazione, giorni, troppi soldi rispetto Craveri. Troppi soldi rispetto a quello che dai, rispetto ma a quello ragazzi, che prendono gli italiani, dai. Ma ci sono tanti altri personaggi pagati molto di più e nessuno dice niente, per esempio molti conduttori televisivi della Rai. Ma che c'entrano i conduttori televisivi? Quelli fanno un altro mestiere. Fanno loro mestiere, ma sono pagati da no, noi. No, ma fanno un altro mestiere, infatti i conduttori televisivi adesso stanno cercando di ridimensionare un po', non so quanto ci riusciranno. Certo, trovo sono pagati da noi italiani lo stesso, eppure questi personaggi... Trovo ridicolo, per esempio, Parenzo, che Vespa dichiari di non essere giornalista. Bravo. Ma un intrattenitore. Bravo. Quello lo trovo ridicolo. Cioè, bravo. per trovarsi nella stessa situazione... Per ovviare al tema del tetto, lui, giornalista, dice di fare l'intrattenimento. E allora faccia i pacchi anziché no, ma è incredibile porta. Questa cosa faccia, qua cioè. Faccia il titolo della trasmissione, faccia pacco a pacco, che non è una non è un gioco di parole. Senti, ma tu sai cos'è lo squirting? Sai cos'è lo squirting? Marina, sai cos'è lo squirting? No. Non sai cos'è lo squirting? Manco tu. No, non lo so. Lo squirting femminile, sai che cos'è? No, non lo so. Sì, che cos'è? Ma è incredibile, ragazzi. Cioè, l'ignoranza che c'è è pazzesca. Ma non dico, la radio, no, lo squirting. Tu non sai cos'è lo squirting? No, non lo so. Cos'è? Ma dai, su, vai a vedere su Google. Fai squirting. È una specie di eiaculazione fortissima femminile. Cioè, quando la donna viene praticamente come un uomo, si chiama squirting. Non va sai bene, adesso lo so, bisogna saperlo. Ma è importante, è fondamentale. Fondamentale, c'è tutto nella vita, squirtinare. Squirtare, a te non ti è mai capitato di squirtare, dunque, mi sembra di non capire. Andiamo sul pecoreccio, sono venuta a parlare del movimento animalista e poi semmai di fare propaganda al mio squirting, libro Colazione al Grande Tè. Squirting, ricordati, squirting. No, ricordati, parlate squirting, un po' del squirting, mio libro. Squirting, squirting. Ciao bella, ciao. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è squirt. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La Zanzara. Facciamo invece un altro bel format. Cruciani si fa la doccia a casa tua. Esigo che Donato da Varese venga a cagare a casa mia. Ma davvero verrebbe Parenzo a cagare a casa mia? Ma è una roba... Ma quanto devo pagare per questa cosa? E poi un'altra cosa. Ma che giornaletti leggerebbe? Diabolic? Non lo so, ditemi voi. Conduttori. Miserabili! La Zanzara. Allora riprendiamo, caro David. Che trasmissione stasera, mamma mia, con sto telefono. Non toccare sto telefono, no, mamma mia. Non lo sto toccando in alcun modo perché sono disteso in questa poltrona del centro massaggi che è l'ufficio politico. Mamma mia, del sempre a toccare Razzi. I numeri di telefono. Dunque, che fanno rumore, dimmi. Non ho toccato nessun numero, ti assicuro, perché è un telefono che non posso. E allora sto rumore da dove veniva? Da mio nonno, dai, che è morto, dai. Non lo so da dove, dimmi. Mio, mi dispiace dimmi. Per il nonno. Allora, ti segnalo che mi ha chiamato il signor Sed. Tu direi, sì. Chi è il signor Sed? Sì, fra poco lo chiamiamo. Sì, fra il poco lo chiamiamo. Sed è il capo, praticamente, Angelo Sed, delle quelle che si chiamano le botticelle, no? Sì, le botticelle, che giustamente è incazzato perché vogliono togliere i cavalli. È arrabbiato, perché io faccio questo lavoro da 20 anni, sono un professionista, ed è bello che il cavallo porti in giro per Roma, è come togliere una tradizione romana. Sì, è come togliere il cacio e pepe. Ma è la follia. Una... Come togliere il cacio e pepe. L'ennesima follia di animali. Animalismi, quell'assessore vegano al comune di Roma, eccetera, eccetera. Dai. Esatto. Vabbè, ma adesso lo chiamiamo. Aspetta, voglio parlare con Merez da Verona. Merez, vai. Non lo so chi è Merez. Merez, sì. dimmi. Sì, ciao, Cruciani. Dimmi, Merez, dimmi. Tu essere muslim, pure tu essere muslim? Sì, sicuramente, sono musulmano. Sei e musulmano, musulmano praticante. Quante preghiere fai? Abbastanza. Dimmi. Una cosa volevo chiederti. Sì. Riguarda l'isuora cristiana. Non ho capito, le suore. Non ho mai sentito di te giudicando come loro si vestono. Io, figurati, guarda, amico mio, io ho detto pure del Papa. Cioè, ho parlato anche del Papa da questo punto di vista. Per cui, ma non mi puoi attaccare, io prendo in giro chiunque. Puoi. E allora, appunto. Spero che no, perché a farti capire una cosa, che la donna musulmana si veste tua religione, essere religione di conquista, essere religione, ma non conquista religione di guerra, religione anche di violenza, Cruciani, non solo religione di violenza. Ti devi aggiornarti un attimo, è finito quell'epoca lì. Religione di violenza in parte, non tu, ma essere anche religione di violenza in nome di Islam. Ma sono due cretini che di Islam fanno stragi in nome di Islam. Sbagli, signor Ferrara dice oggi che dobbiamo attaccare Islam radicale. Signor Ferrara dice che non dobbiamo essere passivi, bisogna andare all'attacco di Islam radicale. Ma quale, cosa attacchi? Dimmi, non lo so adesso di cosa parla. Non lo so, amico mio, però in nome della tua religione, in nome della tua religione si ammazza oggi. Ma non ammazza nessuno, ma questa è una sciocchezza. Ma come la gioia, la realtà? Usano l'ISA per un altri scopi. Ciao Merez, ciao. Allora, come giustamente diceva Parenzo in questa trasmissione serale di Radio 24, chiamasi La Zanzara, succede un po' di tutto. Per esempio ha chiamato, perché ha sentito credo qualche intervento, il signor Angelo Sette, che è il presidente sostanzialmente delle Botticelle, cioè dei vetturini romani che portano in giro per Roma turisti e non solo turisti. Signor Sed, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, che succede qui? Vi vogliono togliere sostanzialmente i cavalli. Ho visto dei prototipi di Botticelle col motore che sono agghiaccianti. Mi dica. Sì, questo è un prototipo di una Botticella, diciamo, quindi non si può chiamare neanche Botticella. È una macchina elettrica dove viene completamente tolto il cavallo e c'è appunto questa macchina che dovrebbe girare. Ma che roba è? Ma chi se l'è inventata sta roba? Sembra un incrocio tra un muletto e una macchina. Ma distruggete questa roba, ma questa roba credo qui che non possa andare mai di moda. Ma chi è che vuole togliere questi cavalli? Gli animalisti fanno sempre emozioni contro di noi per ma il comune a che punto è arrivato il comune? Cioè vuole c'è una delibera pronta? Chi c'è? Questo assessore, no? Questo assessore super vegano, sì, animalista, che è, come si chiama? L'assessore all'ambiente, che ha proposto mercoledì una richiesta di appunto abolire le Botticelle, che è un servizio. Vabbè, ma tu come sei quanto sei incazzato? Fate un'occupazione del palazzo. Quanto sei incazzato per questa Io cosa? Dimmi. Sono arrabbiato abbastanza, perché comunque sia siamo sempre presi di mira con attacchi mediatici e questo credo che Vabbè. Non possa andare per quanto riguarda il nostro lavoro. Vabbè, ma che volevi dire tu, Angelo? Che volevi dire? Io voglio dire che comunque sia la Botticella ci deve stare, perché è una tradizione. Vabbè, quello che ho detto io, non ci voglio niente di nuovo. Che volete fare? Occupare il comune o incatenarvi al Colosseo? Fate seccare il cavallo davanti al comune. Fate cagare i cavalli davanti al comune. Che ti devo dire? Fate qualcosa di eclatante. Se mi devi dire le stesse cose che ho detto io. Certo, sicuramente ci faremo sentire, ma non è che siamo abituati a manifestare, ok. Vabbè. Vorrei dire soltanto. Ma non c'è qui, non è un dichiarificio questo qua. Cioè, no, ho capito perfettamente. Ma io sono dalla parte tua, le Botticelle devono rimanere, i cavalli va benissimo che sudino, che battano le strade di Roma per portare in giro i turisti. Punto e basta. La penso esattamente come me. O mi annunci qualche azione eclatante, oppure. Comunque sia, non staremo con le mani in mano, questo sì. Oh, almeno faremo sentire. Bene, dovete battagliare all'assalto, se non vi dovete fare inchiappettare dal comune così. No, non vi mettete no. a 90 gradi. Cioè, l'animalista non sa neanche dove sta la coda del cavallo, quindi non è possibile che loro diano dei giudizi così per dire, insomma. No? La signora Martani era contro le Botticelle, molto contro le Botticelle. Sì, Daniela sì, Martani. Lo so, ma non è l'unica, quindi. Sì, ma questa cosa va contro bene le così. Vabbè, sì, ciao, sì. Ciao, amico mio. Simone, provincia di Cuneo, vai. Simone, dimmi. Ciao, premesso che tu e Sgarbi siete i miei idoli, detto Vabbè, ciò poi volevo raccontarti una cosa interessante riguardo lo squirting. Dimmi amico. Nel senso, mi frequentavo con una ragazza tempo fa e la prima volta che siamo usciti sì, l'ho portata a casa, ci siamo baciati eccetera e ha lasciato una macchiolina sul sedile della macchina. Lì sono rimasto un attimino perplesso, no? Perché sì, voglio dire. E parto, mi allontano, mi accosto, annuso per capire che cazzo potesse essere, era inodore e non capivo. Tempo dopo ci frequentiamo un po' di più, viene a casa mia, sono seduto sul divano, iniziamo a chiavare così, e a un certo punto lei incomincia a squirtare come se non ci fosse un domani, in sostanza. Io avevo una t-shirt bianca, perché era estate, e me l'ha completamente lavata. Cioè uno squirting potentissimo in pratica. Ma potentissimo, ma il problema è un altro, ecco, che tutte le volte sì, che lei smetteva ovviamente di squirtare, che io potevo riprendere sì, a darci, lei riprendeva con lo squirting. Capito Parenzo? Capisci? Capito Parenzo? Quello è il problema, capisci? No, dottore Pescala, splendido aperitivo Bloody Mary, non ha ascoltato. Sì, però Simone sta raccontando di aver avuto un'esperienza, diciamo, di uno squirting. Simone, come dice in Veneto, Simone e Mona. No, Simone sta raccontando una cosa personale. Simone è un porco, è un porco schifoso che racconta di porcherie fatte con sua fidanzata. Spero tanto sua fidanzata di che sembra dottore, lo aspetti a casa con bastone nodoso. No, ex. Ma ex fidanzata, però voglio dire, diciamo nome e cognome di questa super squittatrice, scusa. No, diciamo, no, non si può. Diciamo nome e cognome, dai, su un bel nome e cognome di questa squirtatrice professionista in pratica. Vabbè, ma comunque tu sei rimasto scioccato da questa cosa oppure no? Scioccato sì, nel senso che... Cioè non ti piaceva sul momento, l'hai apprezzata? No, no, beh, cazzo, lo squirting penso sia l'ambizione massima che... Ma non è vero, ma non è vero, per un sacco di gente mi stanno facendo segno qua, non voglio dire chi, al di là del vetro, mi stanno dicendo che assolutamente no, ad alcune persone fa schifo questo oggetto, certo, che dei professionisti sostengono essere urina. Simone, sì, fermo lì, hai esaurito il tuo tempo, ciao. Lasciati un parenzo. E alla defecarsi io non ci penso. E adesso la bocca. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Tien passo gran cornudo, stronzo imbecille. Perché non parla più dei... Perché non parla mai dei bambini... Dei bambini palestinesi che vengono ammazzati dalle armi israeliane, che quelle gli tirano i sassi e loro gli rispondono che mitragliatrici. Rimortacci sua, non so ragazzini quelli, a gran cornuto, l'anima degli mortacci tua testa è brava e merda. Quelli bambini palestinesi, non so bambini, l'anima degli mortacci tua un'altra volta, vattene a fanculo, a gran cornuto. Imbecille, ma tu guarda che tocca sentì, ma ancora no, mani a fanculo a sta testa di cazzo, ma mannela a fanculo a sta merda, vattene a fanculo alla Parenzo, a te sei bravo di merda, se sta preoccupati i bambini del cara, e non si preoccupa mai, avesse mai detto una volta, avesse mai parlato di bambini palestinesi che vengono ammazzati da quelli come lui. I mortacci tu un'altra volta ti sei sembrato merda, arrivattene a fanculo, merda! No, ma questo mi fa impazzire per il tono, capito? Questo ma signore. Possiamo avere il numero di telefono? Sì, no, ma dopo lo chiamo. No, per denunciarlo, però. Sì, no, è di una violenza. Grazie. Questo qua, è di una violenza inaudita, perché, caro amico camionista, vedrai romanesco... Che, ma non so che cos'è, può essere anche un notaio, ma vedrai che quando gli verrà recapitata la lettera dell'avviso di indagine nei suoi confronti... Sì, sì, vabbè, adesso vedrai... Che cosa ha detto? Sono degli insulti che vengono ripetuti ogni tanto qui alla Zanzara, non è che... Sì, vedrai che il tono suo cambia. Dice ebreo di merda, che non è bello, uno gli puoi dire anche testa di cazzo e non ti denuncerebbe. Esatto, ebreo di merda, esatto, è molto brutto, bravo, però, caro ascoltatore camionista. Tutto la testa di cazzo, tutto il resto no. Dopodiché gli auguro di attraversare la strada, sì, e di stare però attento alle macchine che arrivano da sinistra e destra. Addirittura. No, perché lui in genere non guarda. Lui in genere quando attraversa non guarda. Allora, Sara da Roma. Mi auguro che quando attraversa la strada di guardare sia a sinistra sia a destra. Sara da Roma. Ecco. Sara, eccomi. Mi senti? Eccoci qua. Ti sento, eccomi. Allora, che hai da dirci? Beh, io da dirvi un po' di cose, perché sono rimasta abbastanza allibita da un articolo che ho letto su Dagostia di questa dottoressa, credo, Rizzoli. Melania Rizzoli, cioè. Sì. Esatto, questa bravissima dottoressa, bravissima, meravigliosa, che non so che evidenze scientifiche ha, che campioni ha raccolto, che tipo di indagini ha fatto... Sarei curiosa di vederle, ma parla dello squirting e dell'eiaculazione femminile, sì, sono due cose ben diverse, chiamandolo piscio. Sì, sostanzialmente, secondo lei, quella che viene chiamata oggi squirting, di cui abbiamo lungamente parlato qui in questa trasmissione, per vari motivi, è sostanzialmente urina. Lei dice, maschi, non vi muovete troppo, non vi agitate troppo, alla fine è urina. è urina. Esatto, innanzitutto non si capisce perché questa raccomandazione ai maschi, perché i maschi in questa cosa c'entrano veramente ben poco. Vuole dire che se uno, di sa, se uno sa che è urina, magari non si entusiasma per questa roba qui, no? Esatto, invece lei dovrebbero entusiasmarsi, visto che si tratta di una cosa ben diversa. Ah, secondo te, scusami, secondo te non è urina? Assolutamente no, una come cosa fai ben a saperlo? Diversa. Come fai a saperlo? Allora, lo so sia per una serie di studi personali che ho condotto insieme ad altre persone. Beh, questo è interessante, studi personali e sul... lo so, e lo sai perché? Sull'eiaculazione femminile e sullo squirting, sono due liquidi diversi e non è assolutamente associabile all'urina. Sì. C'è un testo molto interessante di Diana J. Torres, lei è spagnola. Hai capito, Parenzo? Hai capito? Ma non ho capito, c'è anche un corso di laurea adesso in questa materia? Non c'è un corso, però se vuoi ti invito l'11 giugno a un laboratorio che terrò informativo per dare delle informazioni corrette. Ci sarà un laboratorio sullo squirting? Ma cosa vuol dire un laboratorio? Non pratico, in attesa come facevano le streghe anticamente, no? Un sub. Sarà un laboratorio per ora teorico, mi riservo di farlo anche. Ma pratico. Dove? All'università? No, sarà a Roma. Vabbè, poi daremo i dettagli. Un'associazione culturale. Un laboratorio sullo squirting teorico, ma ci dovrebbe essere una dimostrazione pratica, cara Sara? Scusa, perché non ci guarda, se sono per la dimostrazione pratica, poi si vedrà. Innanzitutto iniziamo a parlarne in termini. Scusa, corretti. se non è piscio, che cos'è? Allora, nel caso dello squirting, quindi parliamo appunto di due liquidi diversi, lo squirting nella composizione, diciamo, una volta che è stato analizzato, perché ci sono tanti studi, soprattutto anglosassoni in materia, è fruttosio, glucosio e sali minerali. Ma c'è un po' di urina o no? Non sia urina, c'è una percentuale piccolissima. Tra l'altro, il fatto che non sia urina te lo dimostra anche un'evidenza. Voglio dire, siamo empirici, no? Andiamo sull'esperienza. Sì. Se tu pisci o se urini, lasci una piastra gialla. Sì. Può essere anche incolore l'urina, qualche volta. No, normalmente l'urea è un marcatore forte. Parenzo, per esempio, non riesco a capire questa attenzione spasmodica ai dettagli proprio. No, ma quello è fondamentale, scusami. È importante perché la Rizzoli, quando mi parla di pisci, mi deve dare un'evidenza scientifica che dimostri che pisci che non e è. E invece tu che hai fatto degli studi dimostri che è un'altra in cosa. In altre occasioni avresti detto non è un convegno di giuristi, invece ti appassioni, caro Gonzalo. Perché è importante, Sara? Perché è una cosa che vivono ogni giorno molti italiani. Facciamola. Allora, vai parlare con lei. Quante donne squirtano? Puoi dire quel gentile signore di Parenzo. Parlare. Parenzo, sì, si può parlare. Volevo dire questo. Signore. Dico, gentile signore. Fai parlare Sara, che ha una voce molto erotica, affascinante e competente. Unisce le tre cose insieme. Non la conosco, ma unisce queste cose qui. È una voce che mi fa tremendamente arrapare, te lo dico così, tanto io sono a Milano, tu immagino che sei a Roma. La sta rimorchiando. No, ecco, non la sto rimorchiando per niente. Della radio. Non la voglio sto dire questo. Adesso faccio finire la presunta dottoressa. Il signore è squirta. No, però no. Ha esperienze in merito. No, allora, non ha esperienze in merito. Il signore, adesso faccio finire la signora, però vorrei che lo stesso approfondimento, magari impara qualcosa. Aspetta. Lo stesso approfondimento avvenisse con il professor Zagrebelsky sui temi della Costituzione. Ma chi se ne frega? La gente interessa lo squirting, non la Costituzione. Alla gente interessa sapere se Sara squirta o no. Per esempio, Sara, tu squirti? Tanto per fare un esempio concreto. Sì. Però non è buono, questo il punto. Questo il punto è che il punto è un altro. Il punto è che le donne, molte donne, passano un calvario fatto di visite mediche con medici che prescrivono medicinali, se non interventi, per eliminare una cosa che in realtà non è urina, perché c'è molta ignoranza. Addirittura c'è gente che vuole guarire dallo squirting? Sì, perché se ti viene detto, se una donna va in visita, quello che gli viene detto, guarda, stai pisciando in incontinenza, esatto. Certo, ma è giusto, preoccupa. Che scherzi, ma stai scherzando, preoccupa. Ma a quel punto il quanto mi piace stasare, è molto affascinante questo racconto, è un racconto vero, un racconto di quello che avviene a tante donne italiane. Quante donne squirtano, cara Sara? Guarda, si parla del 10%, secondo me sono molte di più. Sì, però dalla mia esperienza è vero, 10% al massimo, devo dirti la verità. Sì, io una su 10 ne ho incontrata che squirta, io una su 10. Secondo me il problema è che sono molte di più, il problema è che a monte c'è stata un'attività, tra virgolette, di repressione. Fino al 1600 nei testi si parla di squirting. dal 1600 in poi il tabù squirting, Parenzo, il tabù squirting completamente, diventa addirittura oggetto di censura in Inghilterra. Certo, perché per molte persone magari provano vergogna, eccetera. Scusami, cara Sara, il tuo oggetto è potente? Diciamo di parecchio. Vabbè, avete esempi anche, voglio dire, basta andare, purtroppo è qualcosa che è stato appaltato e veicolato solo dal porno, cioè Citerea. E magari quello è un po' finto. No, assolutamente, Citerea no. Assolutamente Citerea no. Sta parlando di una pornostar, Parenzo, conosci la signora Citerea, la professoressa Citerea, la conosci, Parenzo? No, io conosco purtroppo non è Salvatore Tettis, che è il preside della Normale di Pisa, questa signora non la conosco. La signora Citerea, la professoressa. Io la conosco e conosco una serie di altri professori di varie università, compresa quella che ho frequentato io. Scusami Sara, tu quanto riesci, diciamo, se uno volesse fare un esempio, no, concreto? Da 1 a 3 litri. Da 1 a 3 litri? In quanto tempo? Allora, da 1 a 3 all'interno, litri? No, nell'arco di un rapporto piuttosto lungo. Tieni conto che... Di un rapporto sessuale, cioè di un singolo rapporto sessuale, tu riesci a fare da 1 a 3 litri? Sì, sì. Ah, roba incredibile, ragazzi. Ma questo conto è quasi però da record. Che all'interno delle donne che hanno lo squirting e non l'eiaculazione, perché ti ripeto, sono due cose diverse, c'è una percentuale ancora più bassa di donne che vengono definite femme fontaine, femmine fontana. Tra l'altro ci sono test. Tu sei femmine fontana, sei una femmina fontana. Esatto, una femmina fontana. Ci sono diversi allora attento test. Perché mi sta scrivendo in questo momento il signor Robert Cannuna. Come al solito. Sì. Dice: stupendo, sono a casa con l'influenza e questa Sara mi sta facendo rinsavire. Ma giusto, normale, ma è chiaro che è così. Se avessimo fatto una discussione, se avessimo fatto una discussione, per esempio, sul TAR, il TAR che ha bocciato la nomina dei direttori dei musei stranieri, che coglioni, ma chi se ne frega del TAR? Qui invece più del TAR sono le tazze che riempie Sara, le bottiglie, le tare piene di squirting. Allora, senti, cara Sara, per quanto riguarda il discorso, anche perché ne so così tanto, è perché l'idea è che debba essere veicolata un'informazione corretta alle donne, perché le donne ne sanno veramente poco, sono disinformate, non hanno aiuto all'esterno, perché quello che gli viene detto dai medici è che pisciano. Per cui c'è bisogno brutto, di dare brutto. La mia amica Rizzoli ha sbagliato. Corrette. La mia amica Rizzoli ha sbagliato tutto. Non puoi dire che le donne pisciano, perché sennò altrimenti è tutto finito. Quella gente poi si spaventa. Altri due riferimenti. Ti do due riferimenti. Uno, vabbè, il testo della Diana J. Torres, e un altro testo si chiama Fica Potens. Vabbè, adesso lasciamo. Come si chiama, scusa? Appunto, ti interessa. Si chiama Fica Potens. Fica Potens. Nella dedica di Diana c'è scritto: sperando che le lacrime diventino onde potenti. Allora, ragazzi, stiamo parlando con una donna fontana, una femmina fontana. Scusami, Sara da Roma, la quale dice di poter arrivare fino a 3 litri in un solo rapporto. Ci ha spiegato tecnicamente, anche scientificamente, i testi di riferimento, Parenzo, come se fossimo, come dire, una lezione di diritto costituzionale. Vogliamo... Se ti interessa, dimmi. Aspetta, un'altra cosa mi interessa. Mi interessa capire. Lo squirt va di pari passo con l'orgasmo? È interessante questo? No, nel senso che può andare, però può andare di può pari andare, passo. Può capito, Parenzo? Sta attenzione. Ma può essere. Cioè, come uno dice, l'articolo 1. Voglio capire, la signora esattamente questi studi così approfonditi. Ma quello poi vedremo che studi ha fatto. Vedremo. Adesso è importante sapere. Non perché studi, ma dico, ci sta dicendo. Se vuole, questo... posso mandargli un sacco di materiale. Così può è come l'articolo 1 della Costituzione e l'articolo 7. Cioè, che rapporto c'è tra lo squirt e l'orgasmo? Interessante, cioè, come uno parla di rapporti 0. Sì, però possono coincidere. Può essere precedente, può essere successivo. Il senso è che possiamo non è dare cosa... il numero di questa Sara al signor Robert Cannuna. Che no, i numeri non si danno. Guardi, me lo saluta caramente. Magari ci possiamo vedere fuori per un caffè. Se gli dice così, quello s'arrapa. Se dici così, quello s'arrapa. Signor Annuna non ci vede più. C'ha la febbre, comincia a smanettarsi. Magari anche anziano. No, non è anziano, è giovane. Però allora meglio è ebreo, dunque gli ebrei hanno una certa fama da quel punto di vista. Però, comunque, signora Sara, può essere precedente o successivo o contemporanea? O no? Precedente, successivo, contemporaneo, comunque svincolato. Questo perché l'idea che ci sia, che sia legato all'uomo, in realtà non c'è, non c'è nel però senso l'uomo, lo può, l'uomo può aiutare, può aiutare l'uomo da quel punto può aiutare, ma semplicemente nella misura in cui un uomo si dedica a una donna. Quindi nel momento in cui l'uomo sta con una donna a qualsiasi titolo per darle piacere, sì, allora a quel punto è ipotizzabile, ma ipotizzabile in qualsiasi rapporto, sarebbe bene che l'uomo è una donna da sola, donna si può allenare, per... si può allenare assolutamente per ascoltare... sì, assolutamente e sì. Come, in che molto modo? Spesso il problema è che molto spesso le donne si contraggono, perché? Perché quando arriva lo stimolo legato, sì, all'eiaculazione, allo squirting, la sensazione è quella di urinare. Se le donne è un tema complesso che affronteremo in una, in una seconda puntata. Anche no. Sì, sì, in una seconda puntata, come nei testi così. Bravo, ma noi lo faremo. Noi lo faremo. Ma questa è stata la prima lezione, come nelle lezioni di diritto costituzionale, con una persona Ma almeno alterniamo, scusa, Zagrebelsi e questa qui. Sì, vabbè, questo certo alterneremo, non è che faremo ogni giorno. Cara Sara, ti ringrazio molto, un abbraccio. Ma tu quando hai delle sporchi anche i posti dove vai, cioè gli uomini. Tesoro, di a quel signore al telefono che mi chiamo Sara Del Gaudio, non questa qui. Sara Del Gaudio, ma gli uomini spesso sono terrorizzati da quando tu squirti un litro di roba? Beh, le reazioni sono delle più diverse, dalla paura alla curiosità allo sbigottimento, però tendenzialmente piacere. Non è una cosa legata alla potenza maschile, in questo senso, perciò anche l'articolo che lo legava in qualche maniera a una è sbagliato, è tutto sbagliato. Uomini. Allora uomini, ragazzi, non preoccupatevi perché non dipende da voi. Bene. Prima puntata, prima lezione di Sara Del Gaudio sullo squirting. Avete assistito a una grande prova di Sara Del Gaudio, maestra di tutti noi, femmina fontana. Caro Parenzo, te saluto, ci sentiamo domani, ciao. Ciao caro, ciao. David, quanto ce l'hai lungo il tuo zinna? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A volte faccio parte della maggioranza silenziosa, a volte di quelli stronzi che vanno a mignotte.